A bordo campo di Dario Ricci. Torniamo a salire in alta quota oggi a bordo campo. Lo sapete, ogni tanto ci piace salire su quei leggendari 8000 della Terra per vedere come gli uomini sfidano gli dèi a quelle altezze, quali sfide inventano e scogitano e come si vede soprattutto il mondo dall'assù. E allora oggi lo facciamo per raccontarvi di un'impresa che tre alpinisti stanno mettendo a punto, che ha davvero qualcosa di eccezionale. 2 8000 in 7 giorni, concatenamento di Shisha Pagma 8027 metri e Choyu 8201 metri in una settimana, e fra poco dal nostro ospite sentiremo in che modo questo gruppo di alpinisti e di straordinari atleti proverà a farla questa impresa. Allora saluto subito, benvenuto a Radio 24 e a bordo campo ad Andrea Zambaldi. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Allora, Andrea Zambaldi, 31 anni, ha al suo attivo già numerose spedizioni, tra cui Aconcagua nel 2004, una nuova via sul Cuitaraju nel 2005, una via nuova all'Iscinca nel 2012, l'Alpa Magio sempre nel 2012, Shisha Pagma nel 2008. Insomma, Andrea, direi che non è che si parta all'avventura per questa sfida, no? No, direi di no, direi assolutamente di no. È una cosa a cui ci si arriva decisamente col tempo, provando, ci si arriva per gradi, però sicuramente devi avere un bagaglio alle spalle che ti permetta di muoverti in sicurezza, se sicurezza si può chiamare su quel terreno, con un certo margine, ecco. Beh, diciamo che poi, detto fra noi, qualche rotella a voi vi manca, perché andate sempre a cercarvi delle sfide sempre più al limite. C'hai ragione Dario, è vero, me lo chiedo anch'io a volte chi ce lo fa fare, però poi in fondo troviamo sempre la motivazione e ci rimettiamo in marcia. Questa volta con Benedikt Boehm e Sebastian Haag, i tuoi compagni di avventura, non solo vi siete messi in testa, come componenti tra l'altro dell'International Dynafit Team, di fare questo concatenamento Shisha Pagma e Choyu in una sola settimana, e chi conosce questo tipo di sfide sa bene cosa rappresenti a livello psicofisico, ma soprattutto vi siete inventati un modo davvero originale, strambo, curioso. L'aggettivo, poi, una volta che ve lo racconterà Andrea, lo potrete scegliere anche voi amici all'ascolto, per fargli gli spostamenti intermedi tra le due cime, perché se non sbaglio li farete con due ruote, no? Sì, tu praticamente stai parafrasando il fatto che siamo senza rotelle. Ecco, senza rotelle ma con almeno due ruote, ecco. Ma con due ruote, esatto. Sì, perché non solo ci sarà il tentativo di salita di queste due 8000 metri con gli sci e quindi conseguente discesa sempre con gli sci. Ah, ecco, questa l'avevo dimenticata questa. Sì, non ci bastava camminare, basta. Ma aggiungeremo anche la bici, perché sono circa 200 chilometri che separano i due campi base delle due montagne e vedremo di percorrerli assolutamente senza mezzi a motore. E questo il tutto in 7 giorni, quindi significa una salita in velocità sulla prima cima che sarà lo Shisha Pagma, sicuramente una salita che avverrà all'interno delle una ventina di ore più o meno. Discesa, dormiamo, saltiamo in bici, dall'altra parte molliamo la bici e si risale, quindi sarà un'avventura molto completa e molto pesante dal punto di vista fisico e psicologico sicuramente. Ecco, a questo punto vengono in mente veramente tante domande. La prima è che tipo di bici utilizzerete, perché immagino che insomma non ci siano grandi strade asfaltate, no? No, direi di no, è un altopiano desertico, è un deserto roccioso, diciamo, che è tra i 4.500 e i 5.000 metri più o meno di quota, quindi sicuramente avremo delle biciclette riammortizzate, delle full suspended, come si dice adesso, con un'escursione non eccessiva per non farci disperdere troppo energia nella pedalata, e in questo abbiamo avuto un grande aiuto dal partner nostro Canyon, che ci ha fornito le bici per fare tutto lo spostamento, tutto questo lavoro. Tra l'altro c'è un allenamento specifico, state facendo un lavoro specifico per questo spostamento in bici, oppure comunque la preparazione finalizzata alla scalata vi dà sufficiente sicurezza anche per la parte a due ruote? Guarda, è un movimento completamente diverso. Abbiamo macinato tantissimi chilometri, soprattutto da quando abbiamo messo in piedi il progetto e con testa abbiamo deciso di partire, e quindi si parla di marzo, in cui abbiamo definito tutto, ci siamo messi veramente in sella, abbiamo pedalato tanto, tanto, tanto. In ogni momento possibile, o era corsa o era bici, di giorno, di notte, prima di andare a lavorare, perché comunque non sono tanto i 200 chilometri che spaventano, ma sono i 200 chilometri dopo aver salito e sceso una montagna di 8000 metri, praticamente senza nessuna forma di recupero fisico, e soprattutto sei sempre sopra i 4000 metri, quindi sarà molto pesante come spostamento. Ecco, dal punto di vista scientifico mi sembra anche sotto questo profilo una sfida estremamente innovativa. Come la state preparando? Ecco, nel particolare tu, come state pensando di affrontarla? Come la stai preparando proprio dal punto di vista atletico, psicofisico? Ma guarda, sicuramente una componente fondamentale è l'alimentazione. Quindi ho deciso tramite un amico che magari conosci, Nico Valsesia, che anche lui è solito. Certo. Come no, mi ha presentato la sua nutrizionista, chiamiamola così, che poi è un'amica, che ha sempre seguito lui, e adesso sto chiedendo consiglio a lei per essere preparato anche dal punto di vista dell'alimentazione, per non avere mai cali dal punto di vista del fabbisogno energetico. Messa a posto questa parte, assolutamente di primaria importanza, c'è stata un oculato allenamento su tutta quella che è la fase aerobica. Non si può rischiare assolutamente di arrivare e essere in crisi, perché vuol dire mandare in fallimento l'intera spedizione, l'intero progetto. Del resto, per esperienza, devo però dire che voi alpinisti spesso la parte dell'alimentazione, eccetera, eccetera, un po' la trascurate, no? Vi fate un po' prendere, secondo me, dal fascino della salita, dagli aspetti tecnici che pure sono essenziali, e poi spesso partite con l'idea che, vabbè, tanto in una scalata veloce con un paio di barrette me la cavo. Invece mi pare che state mettendo la testa a posto. Un paio di barrette vanno benissimo lì per lì, però serve un regime alimentare corretto prima e dopo, se no si rischia di arrivare lì malmessi e si rischia di esplodere. Le barrette sicuramente danno un approvvigionamento calorico e di energia ottimo per la situazione, però non bastano. È vero che abbiamo spesso anche magari salamini, oppure eccediamo in alimenti, altri alimenti carichi di componenti energetiche non esattamente consone alla situazione. Ad esempio un altissimo regime proteico è assolutamente sbagliato, per quanto si possa pensare che possa far bene ricostruire il tessuto muscolare, invece la proteina oltre una certa quota, con sforzi, con gli sprint, non dà i frutti desiderati, anzi rischia di appesantire il fegato, non essere metabolizzata e creare problemi. Quindi per attività di questo tipo ci vuole una regolamentazione alimentare molto rigorosa, anche perché ricordiamoci che questa attività nello specifico non è una normale salita di un 8000 con l'allestimento dei vari campi base: si va a campo 1, si dorme, si scende, si risale a campo 2 e si procede verso la vetta. No, qui sarà uno sprint, in meno di 20 ore dalla base bisogna arrivare in cima, non c'è tanto margine d'errore, ecco. Ci parlavi del tuo allenamento, la tua giornata base in questi ultimi giorni prima della partenza, qual è? Guarda, la mia giornata base, la maggior parte della giornata sicuramente è dedicata al lavoro. Io mi occupo del marketing per alcuni marchi di prodotti di montagna, quindi la maggior parte del mio tempo è dedicata a questo settore. Detto questo, prima dell'ufficio e dopo l'ufficio sono sempre in giro, o a correre tra le montagne, in Dolomiti. Io ho la fortuna di vivere a Bolzano in questo periodo della mia vita e quindi sono molto vicino a un ambiente che mi permette di allenarmi perfettamente. E poi appena le condizioni lo permettono, devo dire che quest'estate non è stata molto favorevole da questo punto di vista, cerco di scappare sulle catene montuose più vicine, il gruppo dell'Ortres, del Cevedale, a passare tempo in montagna e allenare non solamente il fisico scalando, ma proprio la testa. Bisogna anche imparare tanto a soffrire in queste situazioni. Ecco, che situazioni climatiche troverete su Shishapangma e Choyu? Diciamo che forse, lo dico una blasfemia, sono tra gli 8000 forse tecnicamente un pochino più facili, si può dire così? Anche sì, se... sì, assolutamente sì, sono d'accordo, sono tecnicamente tra i più semplici, sono stati scelti non per questo, ma perché sono i più sciabili. Dalla cima fino al campo base si riesce a sciare assolutamente senza problemi, a parte un piccolo seracco sul cioglio dove ci si dovrà attaccare in corda. Quindi una volta raggiunta la cima si riesce a scendere molto, molto velocemente. Per quello già, che è l'ambiente, siamo nella stagione post-monsonica, quindi mi auguro di trovare montagne cariche di neve. Non ci sono grandi rischi di valanghe su queste due montagne, se non in alcuni punti ben definiti, che conosciamo già, e anche le temperature in giornate buone non dovrebbero scendere oltre i meno 20, meno 25 in punta. Non dovremmo avere grandi situazioni di freddo estremo, un gran freddo ma gestibile, ecco, mi auguro. E dal punto di vista del lavoro di squadra, come state lavorando appunto sotto il profilo del team building, ecco, diciamo? Sì, beh, per un'esperienza di questo tipo sicuramente la fiducia del compagno di squadra deve essere totale, non può mancare, è un elemento che senza questo direi che la spedizione non parte neanche, non ci sono proprio i presupposti per guardarsi in faccia e partire. Detto questo, abbiamo cercato di fare il più possibile attività insieme durante quest'estate, nonostante avessimo fatto già in passato altre attività insieme, sempre sull'arco alpino. Siamo tutti e tre colleghi, facciamo tutti parte del team Dynafit Expedition International e anche lavorativamente abbiamo un buon affiatamento. Ad esempio Benedict Boom è il brand manager di Dynafit International, quindi con lui ho molto spesso a che fare, quindi c'è un rapporto personale abbastanza stretto. Quindi un rapporto che va anche oltre la pazzia che farete questa fine d'estate, sì. Insomma. È un qualcosa che non finisce lì, non basterebbe, serve conoscersi per poter partire insieme per queste attività. Senti, allora Andrea Zambaldi, augurandoti un immenso in bocca al lupo a te e a Benedict Böhm e a Sebastian Hag per questa sfida. Sembra già un'assurdità la domanda, ma fatto questo, prossimi obiettivi? Ma sicuramente una vacanza al mare, questo sarà il primo obiettivo da fare per rilassarsi un pochino. No, scherzi a parte, sarebbe bello continuare questa tipologia di attività, di salite in velocità, sempre con gli sci, magari provando a spostarsi uscendo dall'Himalaya tibetano e magari scendere verso l'Himalaya indiano o addirittura cambiare continente e portare gli sci in Sud America, che al momento è un'attività non ancora eccessivamente diffusa. Ci sarebbero moltissime possibilità da provare ad affrontare, ecco. E allora Andrea Zambaldi, intanto un grande in bocca al lupo per questa doppia sfida, 28.000, Shisha Pangma e Choyu in 7 giorni, e per favore una piccola cortesia, porta nel tuo zaino anche un po' dei nostri sogni. Assolutamente, non mancherò. Grazie mille Dario. A bordo campo. Chi l'ha detto che le famiglie reali non servono più a niente? Da quella inglese, in particolare dal principino Harry, è venuta un'idea di cui vogliamo ragionare insieme a bordo campo, un'idea che parte da lontano, da una poesia della fine dell'Ottocento, una poesia senza titolo di William Ernest Henley, Invictus, una poesia che, pensate, accompagnò Nelson Mandela durante i duri anni della sua prigionia a Robben Island, perché in quel testo Mandela trovava la forza quotidiana per ribadire le ragioni della libertà e della voglia di marciare per un Sudafrica libero. Indomito, direi, si può tradurre Invictus, questa parola che ha un significato davvero ampio e particolare. Ebbene, come si mettono insieme tutti i tasselli di questo puzzle? Lo chiediamo al nostro ospite, che è un grande amico di A Bordo Campo e di Radio 24. Benvenuto Claudio Arrigoni. Guarda, è sempre un piacere parlare a Radio 24, che mi sta nel cuore, ma poi parlare di argomenti che sono veramente straordinari, e fra poco capiremo il perché. Eh sì, perché abbiamo già messo in mezzo Invictus, una poesia leggendaria, un personaggio straordinario come Mandela, il principino Harry, che insomma è un po' il diavolo della famiglia, è un po' difficile tenerlo a bada, ma nelle sue peripezie ha avuto un'idea straordinaria, che è quella di cui parliamo con te. Perché? Perché proprio dall'idea di Harry nascono questi Invictus Game, che dal 10 al 14 settembre si svolgeranno a Londra, negli stessi impianti dell'Olimpiade, e che sono riservati ad una categoria davvero particolare di atleti, vero Claudio? Eh sì, però dobbiamo partire da lontano, da molto lontano. Andiamo indietro nel tempo e andiamo a appena dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è un film, si chiama Man, è di Robert Zimmerman, c'è un attore straordinario che fa il suo esordio in quel film, si chiama Marlon Brando, ma fa un esordio particolare, perché? Perché è in carrozzina e è un reduce dalla guerra che rientra negli Stati Uniti e si trova a fare mille sport, nell'acqua, naturalmente il basket in carrozzina, naturalmente l'atletica. Bene, quella è la prima manifestazione di sport paralimpico al cinema. Ma perché la ricordiamo? Perché appena i militari americani tornano dal fronte con una disabilità, il Ministero della Difesa degli Stati Uniti cosa fa? Gli dice: ok, qui ci sono 20 sport, adesso li provate tutti, dopo averli provati ne scegliete uno e fate quello, perché lo sport vi porta a capire che non c'è solo la disabilità ma ci sono le abilità. Bene, da quell'intuizione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nascono quelli che oggi si chiamano gli Warrior Games, cioè i giochi per i militari che tornano con disabilità dal fronte, ciechi, senza una gamba, paraplegici in carrozzina, tetraplegici. Bene, sono lì, fanno questi giochi e è come se fossero le Olimpiadi. Loro li sentono nel cuore perché sono divisi fra Marines oppure uomini dell'esercito, uomini dell'aviazione, e si trovano a gareggiare uno contro l'altro in tanti sport. Il principe Harry un giorno va negli Stati Uniti, va a guardare gli Warrior Games e dice: beh, ma questa è una cosa straordinaria. Lui, che è ed è stato militare, certo, e li portano in Gran Bretagna. Beh, direi che insomma è incredibile solo pensare che già nell'immediato secondo dopoguerra negli Stati Uniti vi fosse già questa sensibilità per capire quale percorso di risocializzazione, di reintegrazione poteva partire attraverso lo sport, no? Per questi atleti così particolari, no Claudio? Sì, assolutamente. Lì si capisce lo sport come l'arte, come poche altre cose mostrano quanto veramente nella disabilità ci siano grandissime abilità. E devo dire, in questa intuizione che ha avuto Harry degli Invictus Games, dove ci saranno anche atleti italiani, perché mentre gli Warrior Games, come succede sempre negli Stati Uniti, loro pensano che il mondo finisca intorno a quella nazione, quindi loro ci sono solo atleti americani, no, gli Invictus Games saranno giochi dove parteciperanno atleti di tante nazioni, e ci saranno anche degli atleti italiani, perché da poco, pochi mesi, è stato siglato un accordo fra il Comitato e il Ministero della Difesa. Questo è molto importante, perché avremo una rappresentanza, ma soprattutto abbiamo un protocollo, un accordo tra che ha visto proprio protagonista il nostro Ministero della Difesa, perché di fatto questo percorso è stato aperto, insomma. Quindi la ratifica di questo testo direi che è la vera vittoria in questo caso. Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo Dario, è stata una grande vittoria anche di Luca Pancalli, che da tanti anni diceva: guardate che nell'esercito ci possono essere non solo atleti olimpici ma anche atleti paralimpici, seguiamo questa strada. Ha iniziato inserendo alcuni degli atleti nazionali all'interno di armi dell'esercito e poi è successo addirittura il contrario, come hai detto tu, c'è stato questo accordo fra il Ministero della Difesa e il Comitato Paralimpico, perché gli atleti, i militari che hanno una disabilità in missione possano subito iniziare a fare sport. Ce ne sono diversi che fra l'altro sono veramente ad altissimo livello. Io sono sicuro che ne vedremo diversi a Rio de Janeiro, così come a settembre li vedremo gareggiare agli Invictus Games. Beh, quello che capita tra l'altro già nelle specialità di tiro a segno, no? Dove appunto i militari reduci dal fronte, spesso sfruttando quella che è l'esperienza fatta al fronte in contesti ben più tragici, si riciclano e riescono a dare il via ad una seconda carriera sportiva di altissimo livello, no Claudio? Sì, uno di questi, Luca Barisonzi, è un alpino che è stato ferito, è diventato tetraplegico in missione e non solo scala le montagne con una speciale carrozzina, non solo si è sposato con una meravigliosa ragazza americana, ma adesso ha in mente di cercare di arrivare, perché poi non è detto che non ci riescano, di cercare di arrivare alla Paralimpiade di Rio 2016 proprio nel tiro a segno, ma poi ce ne sono altri che gareggiano nell'atletica, altri che gareggiano in specialità che poi scoprono nel momento in cui diventano disabili, quindi anche questa è una cosa bella, cioè lo sport viene scoperto in quell'occasione e si riesce a comprendere quanto non solo la vita non finisce, ma la vita si apre a prospettive immense, bellissime, straordinarie. Eh sì, davvero straordinario il percorso che ci stai descrivendo, 400 partecipanti alle 9 discipline in programma, dal basket al rugby in carrozzina, alla pallavolo da seduti, ci saranno le rappresentative anche di Afghanistan e Iraq, paesi sempre caldi, ai noi, sul fronte bellico. Ecco, quale scintilla si può accendere a Londra? Quale può essere il percorso futuro di questi Invictus Games? Insomma, al principino mi sembra che l'abbia pensata bene stavolta, dai. No, ha fatto una cosa veramente bellissima, perché poi il fatto che ci sia lui come testimonial è molto importante. Pensa che quando lui è andato negli Stati Uniti e ha visto questi Warrior Games, a un certo momento ha visto proprio hai citato uno sport che poi ha fatto straordinario nel mondo paralimpico, che è il sitting volley, cioè la pallavolo da seduti. Regola, le regole sono uguali a quelle della pallavolo, ma regola principale: sedere per terra. Tu pensa che quando ho parlato con Andrea Lucchetta, grandissimo campione, indimenticato campione e ora anche grande commentatore del volley, lui mi ha detto: ma sai che io faccio giocare i bambini da seduti, perché quando si è così piccoli non si riesce a schiacciare, mentre se si è seduti si è tutti uguali. Quindi pensa, Harry vede agli Warrior Games la pallavolo da seduti, allora fa fermare la partita e dice: scusate, posso provare? Si siede, inizia a giocare, quelle foto hanno fatto il giro del mondo, sono quelle che gli hanno fatto scattare l'idea di fare gli Invictus Games. Beh, è straordinario, al principino direi che gli perdoniamo volentieri anche qualche birretta di troppo, ogni tanto, ma no? Sì, anche qualche, sì, che caso, gli sfugge in qualche pub londinese, direi che insomma se questi sono i risultati ben vengano, no Claudio? Sì, possiamo permetterglielo, dai. Poi fra l'altro è anche bello che quello che gli è venuto in mente di fare in Gran Bretagna, che come abbiamo notato appunto negli Stati Uniti c'è da tempo, che da pochissimo è cominciato anche in Italia, può diventare veramente una cosa planetaria. Questi Invictus Games secondo me sono un bellissimo seme, tu mi hai chiesto prima cosa può sbocciare, ecco, sono un bellissimo seme perché si possa mostrare a tanti che davvero anche... Noi pensiamo ai militari, no? Come dei Superman, dei superuomini. Ecco, anche questi superuomini che si pensa, ma se hanno una disabilità poi non possono più fare niente. Bene, no, rimangono dei grandissimi atleti, rimangono delle persone che possono fare mille e tante cose. Ecco, quindi gli Invictus Games sono un seme che può sbocciare, non può diventare una pianta come è la Paralimpiade, ma può diventare un grande cespuglio che si avvicina alla Paralimpiade. Poi noi dobbiamo pensare che oggi per molti di questi militari non si tratta esattamente di guerra, si tratta anche di andare a cercare di andare a portare la pace, in molti casi anche la democrazia in quei paesi. Pensiamo ai nostri militari, lo sappiamo, non vanno in alcuni paesi dall'Iraq all'Afghanistan a fare la guerra, penso a Monica Contraffatto, una delle ragazze che farà gli Invicta Games, che ha perso una gamba in una bomba, per una bomba in Afghanistan, in un territorio dove erano lì veramente a cercare di aiutare la popolazione, ha perso quella gamba, è tornata e gli è nata questa passione per lo sport, perché stava guardando le gare di Londra 2012, ha visto una ragazza come lei, completamente senza una gamba, che si chiama Martina Caironi, stava vincendo l'oro nei 100 metri e ha detto: beh, io posso tranquillamente arrivare, non dico a fare come lei, ma a fare sport almeno e divertirmi quanto lei. E allora Claudio Arrigoni, i nostri ascoltatori qui a Bordo Campo aspettiamo di leggere i tuoi reportage sugli Invictus Games. L'appuntamento è per il settembre, dal 10 al 14 settembre a Londra. E allora Claudio, in bocca al lupo anche per quest'altra avventura e grazie per essere stato nostro ospite oggi qui a Bordo Campo. Sapete che è sempre un piacere e sport paralimpico portatelo sempre dentro il cuore. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.